luce della luna tu, valle del mio colle, sogno del mio sogno, angelo di carne tu. Con la tua presenza la mia vita è pancia ed il mondo è tutto blu. Anche quando sei stanca tu sei sempre pronta col sorriso in bocca tu. D'improvviso nella piazza entra in scena la dea della bellezza, una splendida regina, una leonessa, una pantera, una dea divina. Mi perdo nei tuoi occhi, ritrovo in te balocchi. C'era una volta una bambina che amava raccontare favole anche la mattina. Voleva sapere tutto e se Dio esiste. Perché c'è tanta guerra, perché non hanno nulla, ma esiste quella stella e un'anima gemella. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mio fiume tu, alba del mio sole, fuoco del mio mare, dammi un bacio, un altro bacio, un altro tu. D'improvviso nella piazza entra in scena la dea della bellezza, una splendida regina, una leonessa, una pantera, una dea divina. Io mi perdo nei tuoi occhi, io ritrovo in te balocchi. Non aver paura, anima mia, anche se il mondo non può capire la tua pazzia. Vedere oltre è un bel regalo, gioia mia. Stringimi che il vento a te ti ascolta appunto. Ho bisogno del tuo sguardo per abbracciare il mondo. La la la la la la la.